Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il modus operandi era sempre lo stesso. Uno del gruppo agganciava un anziano in strada fingendo di essere un amico o conoscente del figlio da cui dovrebbe ricevere denaro. Quindi chiedeva all'anziano di provvedere per conto del congiunto al momento indisponibile. Per rendere credibile la richiesta, il truffatore contattava telefonicamente un complice che si fingeva il parente dell'anziano a cui, sfruttando una comunicazione disturbata d'arte, confermava la necessità di versare il denaro. Le somme variavano dai 500 ai 5.000 euro. Quindi l'anziano veniva accompagnato in banca e gli si faceva ritirare la somma richiesta. Qui un secondo complice, di solito una persona incensurata e pertanto difficilmente riconoscibile da foto segnaletiche, fingendosi cliente dell'istituto di credito, controllava che l'anziano facesse quanto richiesto. Dove ciò non fosse stato possibile, la banda arrivava ad accompagnare le anziane vittime anche negli appartamenti per farsi consegnare gioielli e in un caso perfino la fede nuziale. Loro cercavano sempre la persona più debole, la vedevano, andavano nei quartieri più eleganti di Roma, selezionavano anche i quartieri, per cui i quartieri erano i quartieri prati. L'estate è il periodo critico per le persone anziane. Per un'infinità di ragioni, non voglio sforare nei luoghi comuni che saranno percorsi già in tutti i telegiornali che cominciano a dare i consigli per il caldo, quando arriverà il caldo. Mi raccomando, le persone anziane stiano a casa nelle ore di maggior calura, bevano molta acqua, vestano abiti freschi, le solite stupidaggini. Beh, invece uno dei problemi maggiori legati al fatto che gli anziani sono soli o le persone sole comunque hanno minor punti di riferimento è proprio dato che nell'estate esistono città più vuote, esistono condomini meno popolati, esistono più persone che abbassano le saracinesche dei negozi, quindi le città diventano in parte meno ospitali per le persone che non hanno punti di riferimento concreti, seri, costanti. Questi sono gli anziani che d'estate vengono truffati in maniera superiore di quanto lo vengano durante l'anno. Esiste ormai una rete diffusa, circoscritta, elaborata, raccontata. Più volte noi abbiamo fatto trasmissioni sulle truffe degli anziani, eppure leggo sul giornale che anche ieri l'ennesimo anziano è stato truffato con la truffa del incidente al parente. Viene l'amico del nipote, dice: tuo nipote ha avuto un incidente, bisogna tirare fuori subito dei soldi, bisogna portarlo all'ospedale, adesso non so, sono varie varianti, e l'anziano alza la mattonella, vuota il baratto della marmellata, tira fuori i soldini che tiene lì nascosti perché non si fida delle banche, non si fida delle carte di credito, e ancora una volta viene sfruttato e truffato. Beh, noi questa mattina ripetiamo per l'ennesima volta una serie di consigli, arricchendoli di nuovi format di truffa all'anziano, visto che è uscito un libro che vi consiglierei di regalare ai vostri nonni, ai vostri genitori, per avere una garanzia in più, non la certezza assoluta, che quest'estate staranno un po' più attenti quando qualcuno busserà alla loro porta facendo strane richieste o adducendo strani legami di parentela con voi figli o voi nipoti. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Testo fermavano gli anziani che rincasavano dopo la spesa e con una scusa entravano in casa loro per rubare tutto quello che trovavano. La polizia di Torino ha scoperto e sgominato una banda formata da soggetti di origine sinti, residenti a Torino e specializzata in truffe agli anziani. Dalle indagini è emerso che i truffatori percorrevano le vie di Torino in orario mattutino, addocchiando persone anziane sole. Un uomo e una donna li avvicinavano e cercavano, con diverse scuse, di guadagnare la loro fiducia per poter entrare nelle loro abitazioni. La ragazza rimaneva in auto per verificare che tutto filasse liscio e che non ci fosse la polizia a controllarli. Mentre un componente della banda distraeva l'anziano con la scusa... Ora, non è detto che si tratti sempre unicamente di anziani. La capacità di dare ascolto a persone che hanno il solo intento di truffarci può essere distribuita anche in altre fasce d'età. Possono essere anche giovani, possono essere anche persone che comunque in quel momento non stanno pensando, non stanno immaginando che la persona che si rivolge a loro in maniera gentile, in maniera affabile, che sembra quasi che ci si conosca o che non agisca altro che per il nostro interesse o per un disinteressato senso di darci soccorso, aiuto o fornirci delle occasioni a noi utili, sia in realtà un truffatore. Questa mattina vorremmo, se possibile, integrare quello che noi diremo in trasmissione con le esperienze dirette di chi ci ascolta, che senz'altro avrà nella sua cerchia di amicizie, di parentele, di persone conosciute, dei casi interessanti di truffa diretta nei confronti delle persone che in realtà sono le più sprovvedute. Il numero è 800240024, come sempre, e aspettiamo il vostro contributo. Innanzitutto Vincenzo Tancredi, buongiorno. Vincenzo Tancredi, sì, sì. Mi sente, sì? Sì, sì, la sento bene. Ecco, buongiorno, l'ho detto, è autore del libro Io non abbocco, storie di anziani e truffatori, edizioni Gruppo Abele. È un libro scritto su un'esperienza personale. Tancredi è un poliziotto, è una persona che da anni si occupa di pubblica sicurezza a Torino, è sovrintendente di polizia, ha lavorato molto tempo sulle volanti e da 5 anni fa parte di un servizio che si chiama Sezione Fasce Deboli, che è stato proprio istituito dalla Questura per raccogliere dalle dirette esperienze degli interessati, tutte le denunce, le querele, i racconti delle persone che hanno subito tipi di truffa che andremo a elencare in questa trasmissione. Tancredi in un libro elencato con titoli anche divertenti e suggestivi tutte le più importanti, le principali categorie di truffa, e assieme a lui oggi cercheremo di raccontarle. Allora, innanzitutto, Vincenzo Tancredi, ho letto sui giornali proprio ieri, mi sfugge la città dove è accaduto, l'ennesima truffa del nipote, della persona che si presenta dicendo: sono un amico di tuo nipote, mi serve questo, mi serve quell'altro. Naturalmente il nipote ritrovato è il primo del racconto del suo libro. Vediamo di cominciare. Innanzitutto mi racconti l'esperienza del suo osservatorio. Lei ogni giorno, penso, vedrà e riceverà persone che le vengono a raccontare poi alla fine sempre le stesse cose. Io sto in religioso silenzio, sperando che i problemi che sto sottolineando da tanto tempo qualcuno li risolva. L'ospite non mi sente, io posso andare avanti tranquillamente, è caduto anche l'ospite, andare avanti tranquillamente a raccontare quello che contiene questo libro. Cioè, questo libro contiene tutte quelle tipologie più usuali che naturalmente capita di incontrare ogni giorno nei racconti delle persone, ma anche nelle esperienze dirette. Ho raccontato già a questo microfono, lo racconterò perché devo riempire questo prezioso tempo parlando io al microfono, il fatto che io qualche mese fa ho chiamato la polizia a casa mia. Io, persona anziana sicuramente, ma non rincoglionita al punto di essere truffato, mi sono trovato per solo un attimo, per un istante, a dare credito a delle persone che bussavano alla porta dicendo che volevano darmi delle fantastiche occasioni di risparmiare sulla bolletta del gas, sapendo già, avendone parlato in trasmissione, che si trattava di persone comunque avevano degli interessi, erano certo quelli di favorire il mio budget familiare. Ho dato ascolto per pochi istanti a loro. Quando ho realizzato chi fossero, li ho invitati a andarsene da quel condominio perché c'erano degli anziani che già sentivo che si lamentavano, hanno protestato, ho chiamato la polizia. Come ho chiamato la polizia, sono messi a correre, sono scappati per le scale e vi dico, da qualche mese perlomeno a casa mia non si vedono più. Vincenzo Tancredi, l'abbiamo recuperata? Sì, sì, sì, ecco, sono in ascolto. Ecco, dicevo, l'ho presentato, ho detto quello che è il suo punto di vista, il suo osservatorio, e stavo raccontando un episodio personale. Non sono ancora nella categoria degli anziani proprio un po' svampiti di testa, però mi è capitato un paio di volte. Non solo gli anziani vengono truffati. Sì, tutti infatti. Cioè, no, ma tutti, è il meccanismo con cui volevo confrontarmi con lei, proprio di esperienza personale. Pochi mesi fa la persona che ti bussa ti vuole fare il grande affare con la bolletta e via dicendo, siccome era troppo insistente e sentivo troppe proteste per le scale del condominio, ho chiamato i suoi colleghi della polizia. Come li ho chiamati? Lui mi ha sfidato, chiama la polizia. Sono messi a correre per le scale e non sono più apparsi almeno da mesi in quel condominio. Certo. Ho parlato più volte della truffa dello specchietto, del motorino. Mi capita un ragazzino, mi sembrava ingenuo, di buona famiglia, sento la botta sulla macchina, mi dice: guarda, per poco mi uccidi, mi ammazzi, c'è il motorino tutto distrutto. per un attimo solo mi è venuta la tentazione, cioè, vedi che ne parlo tante volte, fosse vero. Poi mi sono accorto con il pogo, mi ha fatto una strisciata sulla macchina e ho detto vada vai, è meglio che ti allontani, via dicendo. Però ho avuto degli attimi in cui gli ho quasi creduto. Qual è il meccanismo per cui si cade anche essendo smaliziati in queste truffe? Ma possiamo, a volte questo ipnotismo comunicativo che loro hanno, questi truffatori, hanno una comunicazione, hanno la favela, come si dice, e allora diventa anche gestuale, è un momento dove tutti, come dicevo, possiamo caderci. Ecco, questo è importante per mettere le mani avanti, per capire, potrebbe accadere a qualunque persona. Hanno la capacità di entrare, di insinuarsi nell'attimo di disattenzione, di caduta delle nostre difese, in cui possiamo crederci anche noi. Certo, certo, guardi, io le dico la mia esperienza da poliziotto, che per fortuna non è andata poi a termine, le dico, io mi sono portato in un ospedale, quindi io come cittadino, cioè, sono andato a trovare un carissimo amico, dopodiché parcheggio, ho la fortuna di parcheggiare davanti all'ospedale dove non si trova mai posto, no? E il tempo di andare a salutare, le condizioni erano buone, uscire e ho trovato la gomma bucata. Sono salito sopra e ci ho detto ma cavoli, eppure le gomme sono nuove. Ho fatto pochi metri, mi sono fermato poi davanti a un distributore e di lì ho capito realmente che la gomma non era bucata ma si era tagliata. A distanza di tempo io ho fatto la denuncia di questo evento con me, altri cittadini, altre persone, e il commissariato poi ha preso dei provvedimenti e a distanza di tempo furono arrestati gli autori, insomma. Ecco, ma perché è tagliata la gomma? Tagliata la gomma perché la gomma tagliata non si ha poi possibilità ad andare avanti, quindi io ho lasciato il mio borsello, no? In quel momento, ecco, quei pochi minuti nell'autovettura, è quello che loro vogliono, cioè che lasci o la giacca o che si lasci magari il borsello e loro lo portano via. Lo sa perché glielo dico, io dico Tancredi, sì. Perché mi rivela una cosa che non... Io due volte ho avuto le gomme tagliate... Pensavo che avessi di avere dei nemici che di cui non riuscivo a capire la consistenza, quindi volevano che mi uscisse la macchina e lasciasse qualcosa in macchina. Ecco, la mia fortuna fu quale? Cioè, fu quella di fermarmi in un poco vicino, c'era cioè un distributore, la mia mente ha detto fermati poi qua perché ti danno un aiuto, insomma il gestore poteva darmi una mano, e solo poi dopo ho capito che gli autori avevano fatto tutto questo per portarmi via il borsello, non ci sono riusciti. Cioè loro aspettano che arrivi il proprietario dell'automobile, questo parte, quando si accorge che la macchina non può andare avanti scende, e in quel momento ti rubano. Certo, certo, questo per dire cosa, che anch'io che insomma non sono anziano posso essere colpito. Che poi anche un poliziotto ha studiato tutti. Questo problema, quindi succede a tutti. E quindi questa è una delle tante denunce che poi da poliziotto ho raccolto, ho inserito in questo libro che, come lei ha già detto, si intitola Io non abbocco, è la storia, cioè sono 25 denunce che ho raccolto, tutte vere, che ho trasformato, dato colore, ho romanzato ed è uscito questo bellissimo libro che aiuta. Ecco, il libro è stato scritto appunto per aiutare, per proteggere le anziane, dire attenzione, avviene questo, stiamo attenti e facciamo attenzione. Ecco. Una cosa, Tancredi, mi viene da dire, ma il primo ostacolo è proprio, lei lo dice nella prefazione, la vergogna di essere passati da cretini. Uno si vergogna e dice ma guarda quanto sono stato scemo, vado a denunciare, che figura faccio coi parenti. Va superato anche questo momento. Ma sì, certo, certo, parlare con i parenti penso che sia fondamentale, ma anche importante anche parlare con le persone che sono qualificate, come ad esempio noi, i poliziotti. Come lei diceva, io faccio parte di questo servizio delle fasce deboli che la Questura di Torino dà, e siamo preparati ad affrontare la situazione, e quindi non diamo anche un supporto all'anziano, ecco, non solo raccogliere la denuncia ma un supporto anche morale. Sentiamo subito Gianni, il primo ascoltatore, 800240024, il contesto è chiaro, avete delle truffe subite o... che avete sentito dire che hanno subito persone che voi conoscete, qualcosa di nuovo da aggiungere a quello che è l'elenco del libro di Vincenzo Tancredi, così magari in una seconda edizione ci saranno anche le truffe che avete raccontato voi. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la trasmissione. Io non ho grandi cose da suggerire, da mettere nel libro, però mi è successo personalmente alla mia famiglia. Mio padre lungo la strada è stato avvicinato da una persona dicendo di conoscere lui, di conoscere la mia persona, e se lavoravo ancora nell'azienda, no, aveva cambiato azienda, insomma, morale della favola, dice: Dio santo, ho lasciato a casa il portafoglio, devo andare in farmacia lì a prendere delle medicine, non ho i soldi, se mi fai un prestito, tanto io tuo figlio lo vedo abbastanza spesso. Mio padre ingenuamente, vabbè, gli ha dato 20 euro e se li è fottuti. Ma la cosa più grave invece è successa l'anno scorso. Mia madre, grande invalida in casa da sola, ha sentito suonare il campanello, ha aperto, una signora molto distinta, e ha detto: sono dell'INPS, stanno scadendo i termini per fare dei documenti, che effettivamente c'erano queste pratiche in corso, e ha detto: devo vedere immediatamente i documenti. Ho qui al telefono sua cognata, sua nuora, che mi sta dicendo che però non sa dove è la cassetta con i documenti. E parlava questa signora al telefono con mia nuora, diceva, conosceva il nome, conosceva tutto, conosceva benissimo la storia di mia madre. Alla fine, per concludere, mia madre nel pomeriggio la vado a trovare, piangente, stesa sul letto, bloccata. Questa signora l'aveva denudata di tutto: orecchini, collane, anelli, i soldi che aveva. Aveva convinto mia madre ad andare a prendere i soldi e l'oro che aveva. Mia madre stessa mi ha detto: glielo dati io, mi vergogno di tutto quello che ho fatto. E non si rendeva conto come avesse fatto a cedere a questa richiesta? No. Allora, ha detto: guarda, c'ho anche questi orecchini indosso. Dice: no, quelli lì te li lascio, non mi interessano. E perché erano finti, ma le fedi matrimoniali di mio padre, il suo, la catenina d'oro, altra roba d'oro, che ha portato via tutto. Allora, fermiamoci un attimo, credo dare la linea alle informazioni della borsa. Allora, Vincenzo Tangreti, un attimo riflette, ci dirà esattamente di queste due tipologie quanto sono corrispondenti ai tanti casi che ogni giorno arriva a conoscere dalle persone che vanno in questura a Torino a raccontare di essere stati truffati. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando del libro di Vincenzo Tancredi, Io non abbocco, storie di anziani truffatori, edizioni Gruppo Apele. Un libro nato da un poliziotto che alla questura di Torino tutti i giorni anima la sezione fasce deboli, che è un luogo dove vanno tutte le persone che subiscono truffe in qualche maniera, truffe di vario tipo, truffe a volte molto semplici, molto banali, molto dette, nonostante questo continuano ad avere comunque il loro successo. Abbiamo sentito un ascoltatore, ci ha posto due problemi di truffa, ho chiesto a Tancredi poi di raccontarci esattamente quanto questo corrisponde a una realtà diffusa, ma prima voglio sentire altre due persone, così abbiamo più possibilità di intervento. Maria, buongiorno. Buongiorno, ecco, volevo segnalare questo fatto, che non è una truffa, comunque è sempre un portar via qualcosa, nel senso che il giorno 20 mi è nata la nipotina all'ospedale, mi guarda, siccome papà è di Parigi, i genitori di papà sono arrivati con la macchina all'ospedale il primo giorno, all'ospedale di Niguarda. Hanno parcheggiato la macchina, sono andati a visitare la bambina, usciti fuori, la macchina aveva il finestrino rotto, li hanno portato via. Ma non è una truffa, questo è un furto con scasso. Non è una truffa, ma sono lì persone, cioè quando si va davanti a un parcheggio, vedi sempre lì delle persone che curano le macchine, e quando è qualcosa di fragile, appunto, qualcuno che non non sa come girano le cose, no? Poi arriva appunto all'estero, dall'estero. Sì, ma in questo caso non sono stati truffati, gli hanno scassinato la macchina. Probabilmente non so se hanno affidato la macchina a un parcheggiatore abusivo, come funziona. Comunque hanno rotto il finestrino, hanno rubato la roba che è dentro. Dovrebbero capire che, non so negli altri paesi, ma almeno in Italia, lasciare delle valigie invisibili sul sedile della macchina non è mai qualcosa di prudente. Mario, buongiorno. Non era una truffa, però teniamo l'argomento stretto a quello che stiamo dicendo. Mario, buongiorno. Buongiorno, sono Nicoletti. E niente, io volevo raccontare la mia esperienza. Parlo di 2-3 mesi fa. Vado all'ospedale di Modena, parcheggio, vado a tirare delle analisi, torno, prendo la macchina. Mentre esco dal parcheggio mi affianco nuova, molto bella, ma che importante, sente un signore, dice ciao, ciao, come stai, come stai, come stai? E questo dice la famiglia, e l'impatto è incredibile. Cioè questa persona a un certo punto mi dicevo, facendo agente di commercio, dico, io questo l'ho visto, dove non l'ho visto. E questo comincia subito a dirmi, la famiglia tua come sta, come non sta. Io, dottore, mai avrei pensato, leggendo queste cose, ascoltandole, che potevo cadere in un treno del genere. Cioè lei pensava fine... che fosse una persona che non si ricordava di conoscere. No, esatto, avevo paura di fare la figura, di che ma fai il coglione, ma questa è una faccia che io nel napoletano l'ho visto, io lo conosco questo qua. E quindi questo ha detto tutto bene, sì, la famiglia fa, sì, io ho lavorato, dottore, sono andato in Svizzera, ho fatto bene con la mia famiglia, ho fatto fortuna nel settore della pelle. E mi prendo una giubbina dall'auto e me la butto sull'auto. Dico, ma no, ma io non voglio niente, non ti devi disturbare assolutamente, ti ringrazio, non ho bisogno. E mi metto questo giubbino e comincio a dire alla famiglia, poi alla fine comincia a fare, ma aspetta che te do un altro anche per tua moglie. Che così però, sai, questo, vedi darmi qualcosa. E ho detto, guarda, e lì ho cominciato, dottore, che ecco, mi si è accesa la lampadina. Ho detto, ma qui sta succedendo qualcosa. E questo ho cominciato a dire, ma sì, ma dammi quello che hai in tasca, 200-300 euro, tutto quello che hai. Per 2 giubbotti, ecco, di pelle. Ho avuto la fortuna di aver mangiato la foglia e di dire, l'ho salutato e me ne sono andato. E i giubbotti? E i giubbotti, se li hai ripresi dall'auto, se li hai ripresi e li ho messi in macchina. Ma dottore, una persona distinta, un'auto nuova bianca, mi ricordo, mi sono 40-50 mila euro, cioè anche una faccia... Io ho detto, ma io questo l'ho visto da qualche parte. Fermo lì Mario. Abbiamo già sufficienti elementi. La persona rispettabile, la persona affabile, la persona che ci prende negli affetti, la persona che apparentemente non corrisponde allo stereotipo di truffatore che abbiamo in mente guardando i soliti ignoti, non ha la faccia da coatto. Allora, Vincenzo Tangredi, ricominciamo dall'inizio, ricominciamo dalla coda, anzi, da quest'ultimo episodio. Ma chi sono? Dobbiamo pensare chi sono i truffatori. Ecco, le persone sono persone eleganti, sono gentili, ma sono soprattutto convincenti, hanno come dire, da parlare, da comunicare, e viene facile. Poi utilizzano delle frasi forti, quali ad esempio come sta sua moglie, come stanno i suoi figli, tanto da indurre la persona a pensare in quel momento ai familiari, e di lì si parte con questa idea della truffa da parte del ma secondo lei c'è proprio una scuola, perché queste persone come fanno a mettere a punto dei metodi così precisi? Ma guardi, credo che ci sia una scuola, anche perché utilizzano, come dicevo, queste frasi, soprattutto quando noi abbiamo parlato sempre al momento di prima la signora parlava del furto dell'autovettura, nel secondo c'è questo raggiro veloce sulla strada, ma noi non abbiamo parlato tanto del falso, cioè della telefonata che arriva a casa, no? Dell'anziano a cui gli arriva la telefonata, dove l'interlocutore dice di essere l'avvocato, dice di essere un funzionario, dice di essere un poliziotto, che il nipote, il figlio ha avuto un incidente. Di lì l'anziano crede a quello che gli viene detto, prepara i soldini, gli prepara gli ori, e con un incaricato che viene mandato successivamente presso l'abitazione gli viene tolto il tutto. Però Tancredi, scusi, lei che poliziotto, sì, deve dirmelo. Sì. queste cose non si fanno se uno non ha delle dritte. Prima cosa sapere il telefono dell'anziano, poi avere dei minimi riferimenti. Guardi, un minimo riferimento ci vuole. Il caso della signora che sapeva, guardi, che stava facendo le pratiche all'INPS, chi gliel'ha detto la truffatrice? Il riferimento a volte siamo noi nel nostro inconscio che raccontiamo. Le spiego, cioè io le chiedo come sta suo figlio, lei gli viene di getto a dire: ma chi, Marco, Giulia? Esatto. Ecco, proprio Giulia, ecco, proprio lei, è lei che è successo l'incidente, di lì diamo noi. Come quelli che leggono le carte, quello dice: ma ci ha preso tutto, glielo ho raccontato io. Ecco, sì, gliel'ha raccontato lei. E poi naturalmente ci sono le varie tecniche, dovute anche magari al momento, cioè il tecnico del gas che arriva durante l'inverno, arriva poi magari l'impiegato della banca in casa che suona tranquillamente dicendo che ci sono delle che la signora, l'anziano custodisce delle banconote false che sono state rilasciate. Ecco, poi chi è, quale anziano custodisce non pochi soldini? Ecco, il mio invito è questo, custodire in casa pochissimo denaro, questo è importante. Perché il problema è non si fidano, io vedo ancora alle poste la gente che mette i soldi nelle mutande quando prende la pensione. Sì, e anche custodire pochi ori nella cassetta di sicurezza, e custodire nelle cassette di sicurezza se gli ori, perché... Cioè, portarli in banca e non tenerli a casa se possibile, ecco, questo vuol dire. Ma poi, guardi, sicuramente farli custodire in una banca sarebbe la cosa migliore. E poi le dico, quando giunge qualche malfattore, qualche delinquente, il fatto di prendere tempo è importante, poi anche magari far rete con i vicini, no, subito chiamare qualcuno che è al di sopra, cioè che ancora non è stato coinvolto, no, contattare i familiari. Io devo dire che la telefonata al 113 ancora funziona come deterrente, se uno davanti alla persona chiama al 113 e quello funziona ancora. Soprattutto nel dubbio il 113, chiamare le forze dell'ordine, questo è fondamentale. Poi sta a noi, insomma, noi come forze dell'ordine capire l'evento e vedere chi sono i soggetti, ecco. Se sono, però il vero problema è che molte persone se fanno la telefonata già hanno capito che sono truffati. In realtà rimane questa area limacciosa del dubbio nella quale non ci si riesce a muovere, si è come paralizzati, è come se fosse un serpente incantatore che lentamente si impossessa della nostra volontà. Alba, buongiorno. Buongiorno. La truffa che raccontava prima il signore, avvicinato da uno che è successa anche a un mio conoscente, quella che volevo far presente io, che è abbastanza diffusa, nei supermercati, nei posteggi, sono appostate delle persone che hanno magari anche un aspetto decente, che in qualche modo distraggono. Ultimamente una mia amica sembrava che fossero caduti dei soldi per terra, a un'altra si è avvicinata uno e gli ha chiesto un'indicazione, mettendosi poi dietro la macchina in modo che lei non si potesse muovere, e nel frattempo, senza che la persona, io ho una certa età, quindi anche le mie amiche hanno più o meno la mia età, se ne accorgesse, qualcuno apriva lo sportello e si portava via la borsa, che è la cosa peggiore per una donna. Ecco, questo tutto, secondo me è un dato tutto che possiamo dare tutti. Ormai non c'è più, diciamo, lo status esterno di appartenere a categorie che potrebbero darti dei problemi. Io vedo nelle metropolitane romane, adesso nessuno si offenda, ma quello è, le zingarelle che normalmente andavano per borseggiare, oggi sono vestite che sembrano uscite da una boutique. Le vedo quando poi le arrestano, nessuno le riconosce, sono irriconoscibili, cioè soprattutto uno straniero non vede la differenza fra loro e altre persone, non perché non c'è più lo stigma esteriore, il vestito da persona che ti truffa o ti ruba o ti deruba. Oggi sono facilmente confondibili, anzi sono molto, dal punto di vista della relazione, dell'approccio, molto più empatici di una persona normale. Chi ti ferma per strada, ti chiede come sta la moglie, i figli, si informa di te, ma è rarissimo, anche un amico ti chiama distrattamente, ti stringe la mano e se ne va. 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800240024 mi chiedono di ripetere il titolo del libro, visto che ormai le persone hanno capito può essere un importante e utile vademecum per le persone che stanno sole a casa o che si reputano facilmente preda delle truffe. Il libro si chiama Io non abbocco, storie di anziani truffatori, edizioni Gruppo Abele. L'autore è Vincenzo Tancredi. Tancredi, mi scrive una persona via sms di una truffa che non ho mai sentito dire. Un signore italiano si è spacciato per un tecnico dell'acqua. Ha raccontato alla sua zia anziana che nell'acqua era presente un gas che faceva esplodere l'oro, chiedendo alla zia di controllare l'oro. Lei naturalmente gli ha portato tutto l'oro e l'oro è scomparso, è esploso. Sì, è scomparso più che esploso. Sì, e questa è una delle tante truffe che sta avvenendo negli ultimi mesi. L'acqua che fa esplodere l'oro. Sì, guardi, beh, una bella fantasia ci vuole comunque. Una tanta fantasia, sì, perché all'interno dell'acqua ci sono dei prodotti radioattivi. Un gas, sì, un gas. Ci sono dei gas che fanno saltare, che unendosi, loro si partono a dire che c'è durante dei lavori stradali c'è quest'unione tra gas e acqua. Che poi si introduce questa radiazione e poi farebbe esplodere non solo i monili in oro, i preziosi, ma anche le banconote. Quindi l'anziano... C'è un gas selettivo, fa esplodere solo le cose di valore. Solo le cose di valore. Quindi l'anziano, poverino, crede a quello che gli viene detto e prende dove c'era, no? Perché poi gli anziani... alcuni hanno le cassette di sicurezza, ma alcuni celano quei pochi risparmi magari utili per andare avanti o per i nipoti in luoghi che diciamo che a volte sono anche conosciuti, cioè il barattolo il barattolo dello zucchero, sì, i calzini nel cassetto, sì. Sono quelli posti. Sì, dentro magari la lavatrice, dietro i termosifoni, sopra l'armadio. Però c'è da dire anche questo: noi abbiamo parlato di truppe, ma attenzione, quando noi non siamo in casa, ecco, il ladro ha anche un iter, questo vorrei dire, per mettere così un po' da notiziare i radioascoltatori. Attenzione, perché se voi nascondete all'interno di casa, in camera da letto, sull'armadio, la prima cosa che fanno i ladri sono quella, cioè vanno a vedere la camera da letto, un loro iter, un loro percorso iniziale, dopodiché magari fanno i ripostigli, poi fanno le altre sale, ma sappiate che la camera da letto è dove vanno subito. E anche dentro la dispensa, dove sono i barattoli, che lo sanno, sì. Lo sanno che lì, capito? Gli anziani nascondono ad esempio anche nei ripostigli, sui balconi, ecco, cioè dove loro credono che siano al sicuro i loro beni. Il fatto, come dicevo, di custodire pochi soldini è importante, cioè quella somma che viene utile per la settimana, 100-200 euro, non di più. E se c'è un buon rapporto anche con i familiari, con i figli, magari anche far custodire loro gli ori. Oddio, se abituassero gli anziani che usare un bancomat non corrisponde, certo, a farsi rubare i soldi, la, certo, spesa si fa al supermercato anche con il bancomat, non è c'è bisogno, certo, per tutti questi, certo, soldi. Utilizzare anche il bancomat, tutto quello che viene utile. Sentiamo Andrea velocemente. Andrea. Buongiorno, sono Andrea da Torino. Volevo segnalare che a Torino appunto ce n'è una persona che si spaccia per medico e fingendo di parlare con la segretaria dice che gli ha rubato tutto, macchina, documenti, cartelle cliniche, qualsiasi cosa. Parla al telefono, finge di parlare al telefono, e la gente che è vicino e magari si interessa del caso, e allora magari gli chiede i soldi questa persona, promettendo di restituirglieli successivamente. Sì, oddio. E questa cosa va avanti da 10 anni almeno, che basta seguire le cose che... Vincenzo Tancredi, del finto medico mi sembra mai un personaggio da circo, ne ha sentito parlare lei? No, certo, infatti... È conosciuto. Sì, no, è uno dei 25, allora le dico... C'è un capitolo nel suo libro, Il finto medico. È vero. Sì, è il medico. Sì, parlo di questo. Il medico in panne. Sì, il medico in panne, un po' che. Quindi nulla sfugge a Vincenzo Tancredi. È una delle tante denunce che raccolgo in modo certosino, anche per individuare gli autori. È fondamentale poi eseguire la denuncia. Volevo solo dire che la mia pattuglia, questa pattuglia delle fasce deboli, si reca a domicilio a raccogliere le denunce, quindi basta solo contattare il 113, quindi sarà compito di questa pattuglia poi tramite un elenco di tutti i cittadini richiedenti andare a domicilio, quindi noi andiamo a casa dell'anziano dove l'anziano si sente più sicuro, tranquillo, e di lì si parte con la denuncia. Le dico ancora una cosa che credo che sia fondamentale: ci rechiamo anche negli ospedali, quindi questo è un servizio, perché avviene anche nell'ospedale, è luogo di truffa, sì, l'ospedale no, di truffa no, ma di furti sì, perché molti credono che negli ospedali non avviene nulla, cioè di essere, dico, si pensa che un delinquente non arrivi a portare via un cellulare o un portafoglio o una borsa a un degente, è una vigliaccata, ma purtroppo è così. E cosa fanno? Si mascherano da parenti in visita? Come funziona? Sì, beh, naturalmente, gli orari preferiti sono proprio quelli durante le visite dei parenti o il cambio turno degli infermieri, del personale medico. Altro luogo da tenere sott'occhio, quindi anche quando un parente va all'ospedale non è poi detto che sia così sicuro. Nicola, sentiamo Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Noi abbiamo istituito una rete di pagine Facebook. Ma voi chi siete voi? Noi siamo un'associazione, anzi siamo due associazioni culturali. Dove state? Comune di Esoro, in provincia di Venezia, Comune di Esoro e Comune di San Donà di Piave. E cosa avete fatto? Abbiamo fatto in collaborazione con le forze dell'ordine una rete di pagine Facebook dove segnaliamo i vari episodi che possono essere legati alla sicurezza 360 gradi. Mi dica come si chiama, così almeno date un elemento. Piusicura.it è il sito web, e dopo Jesolo più sicura, San Donà più sicura, Meolo più sicura. Quindi anche voi fate il database delle truffe, che alla fine sono quasi sempre le stesse, o c'è delle mutazioni dalle vostre segnalazioni? No, diciamo che le varianti sono generiche, ma i riferimenti sono sempre gli stessi, cioè i vari finti venditori di energie, piuttosto che le segnalazioni di sicurezza relative ai problemi di sicurezza stradale, ambientale, e soprattutto l'attenzione nostra va sugli anziani, nel senso che attraverso Facebook e questo sito andiamo a segnalare ai figli e ai nipoti che vadano subito ad intervenire o ai vicini di casa la sicurezza per il nonno o la nonna. Che ecco, magari l'anziano non va su Facebook, ma il figlio, esatto, deve sapere esatto, i rischi che corre il padre. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ah, io volevo raccontare un fatto un po' diverso, perché tanti anni fa mia madre, all'apertura del suo negozio di elettrodomestici a Roma, fu ipnotizzata da tre indiani, due maschi e una femmina, molto eleganti, con una tecnica un po' particolare, con dei foglietti, piccoli disegni, parlavano un inglese stentato, poi vollero vedere i soldi italiani, tirare fuori i loro dollari, e mia madre fu tranquillizzata e gli diede tutto quello che aveva in casa. Per fortuna 60.000 lire. E questo episodio? Anni fa nel mio negozio di antiquariato Castelli Romani mi è capitata la stessa cosa, però ho riconosciuto la tecnica. Sempre tre indiani sono venuti, sempre gli stessi? Sempre tre indiani, due maschi e una femmina molto eleganti, e li ho cacciati subito dal negozio. Però la cosa che mi aveva dato fastidio all'epoca con mia madre e che al commissariato vicino al negozio non riuscivano a capire cosa fare, non sapevano come prendere. Beh, oddio, questi tre indiani misteriosi che si ripresentano a distanza di anni, bravi, affabili, ben vestiti, vestiti da indiano immagino, perché sennò non li riconosceva come tali, che ipnotizzano, è un altro elemento su cui Vincenzo Tangredi investigherà e ce ne parlerà alla prossima edizione del suo libro. Alla prossima!